Adesso, prima di chiedere a chi vuole casomai chiedere qualcosa al dottore Brockmann di scrivere il nome su un foglio che io ancora non ho, che metteremo lì, e mi permetto di dare la parola per un breve intervento al padre Marranzini, il quale voleva fare una piccola comunicazione, grazie. Non sono stato io a chiedere la comunicazione, è stato il signor Roger, il quale mi ha pregato di integrare quella che sarebbe stata la pubblicistica su Seripanto WD. Quindi entra direttamente in quello che è stato il prodotto dello studio di questa figura che è così legata a Trento, d'aver lasciato qui anche le sue ossa, anche se sono andate disperse, ma poi stasera nella Basilica di Santa Maria Maggiore ci troveremo a fianco all'astra tombale di Seripanto, il quale ancora splende, come scrisse Cascitelli, come lampada più del sole, perché ha portato veramente un contributo particolare al concilio. Io prendo lo spunto soltanto da quello che disse nel 1927 Benedetto Croce a Iedin, quando lui saliva le scale della Biblioteca Nazionale, e Croce gli disse: è una vergogna che qui ci siano tanti volumi ancora intonsi, cioè non studiati di Seripanto, specialmente quelli che sono i suoi epistolari, che riguardano tutta la storia del Cinquecento, non soltanto la storia del Concilio, ma tutto il movimento dell'umanesimo, tutto lo sviluppo della teologia, la polemica protestante e poi quella che è stata la sua posizione al Concilio, per cui non è possibile studiare la storia del Cinquecento senza conoscere l'epistolario di Seripanto, che nella maggior parte è ancora inedito, quindi è importante. Un altro piccolo ricordo personale: proprio in quell'anno io mi trovai nel salotto di Zio Monterissimi, arcivescovo, di fronte a un padre, in cui io vedevo questo volto, chi è? Quello disse: è un mio predecessore che ha portato tanto contributo nella storia del Cinquecento. Tu non capisci ancora l'importanza di quest'uomo, ma non dimenticare. Nella vita avrai possibilità di comprendere quanto contributo ha portato con la sua vita, con la sua parola, con la sua morte, me lo diceva proprio sottolineando, con la sua morte, vivo nella Chiesa, per la Chiesa e muoio nella Chiesa. L'ha detto qui a Trento nel palazzo davanti al quale noi saremo stasera. E allora io mi sono ricordato di questo soltanto occasionalmente, quando nel 1963 fu organizzata la Biblioteca Nazionale di Napoli dalla dottoressa Guerrieri, che molto conoscono per la sua importanza, lei mi chiese se poteva collaborare per mettere in vista qualcuno dei più significativi autografi di Seripanto. Io misi, per puro caso, mi venne tra le mani di Libertà dei Cristiani. La risposta che lui ha scritto, proprio facendo il viaggio che noi abbiamo fatto in parte. Quando alla morte del viceré di Toledo, la nobiltà napoletana lo ha costretto proprio insistentemente da sottrarsi al luogo di riposo di Consiglio, a 200 metri dove svolgo tutta la mia vita, dalla Santa Maria della Consolazione lo costrinse ad andare a Bruxelles. E non so come abbia fatto, segnando tutte le tappe di questi paesi, interessantissimo vedere come lui ha fatto la risposta alle libertà dei cristiani di Lutero. Mi colpì molto e allora voglio ritrascriverlo, se non che quando la trascrizione era finita ebbe in mano sempre che proprio allora è uscito in Germania il De Libertate Cristiane da Forse, E allora mise da parte il mio scritto, ma poi l'ho ripreso e pensai di fare una traduzione italiana e nello stesso tempo un'ampia introduzione. E il volume di Panto, Dottore Seripanto, che è uscito per la Moscegliani. Dopo ripreso questo, e mi è sembrato che ancora c'è tanto da poter vedere. Che cosa? Quindi io do soltanto degli accenni, poi magari ci sarà la possibilità di pubblicare. Che cosa è stato scritto su Seripanto dopo Pierini? Si è studiato soltanto da Monsignor Balducci e da Pontieri, allora storico dell'Università di Napoli, l'importanza e l'attività di Seripanto nello studio salernitano, per la scuola salernitana, lo studio giuridico e anche per la diocesi. E il contributo di Balducci fu molto importante. Poi dopo di questo, non c'è stato quasi più niente, ma a poco sono cominciati altri studi, ma non di una grande importanza. Su questo qui credo che ci sia presente anche Cassese, il quale ha fatto un breve excursus su quelle che sono state quelle pubblicazioni delle librerie, non scende in particolare. Naturalmente è importante vedere la pubblicazione che è stata fatta delle prediche del Padre Nostro. Sono importanti per vedere come l'attività di Seripanto a Salerno, dopo gli 11 anni di generalato, dopo la malattia, l'imposizione di Carlo V di accettare la designazione a Salerno, la riforma tridentina, quale lui l'aveva auspicata in tutta la sua vita e aveva anche cercato di portare tanti insieme con lui a promuovere questa riforma, lui l'ha attuata a Salerno. E allora uno dei miei scritti più recenti è stato proprio i 10 anni di Seripanto a Salerno come ha svolta la sua attività episcopale. E quindi l'ho scritto che ebbe una certa diffusione in molte parti, la figura del vescovo secondo Gerolamo Seripanto. Però vi premetto che lì è soltanto uno specie. In quanto ho preso alcune anche frasi inedite di una raccolta autografa di Seripanto delle sue prediche a Salerno nelle grandi occasioni. Sto adesso lavorando per inquadrare in quelle circostanze quello che lui esprimeva come pastore, come persona che si sentiva corresponsabile degli avvenimenti e come l'esponeva. Qui viene tutta la sua trasformazione culturale, come dal platonismo è passato all'evangelismo, come l'evangelismo non gli ha fatto perdere l'umanesimo, eccetera. Su questo ecco un contributo veramente determinante è stato una tesi di laurea che fu difesa alla Gregoriana nel 1954 su Seripanto come teologo biblista. È interessante vedere come egli ha presentato anche l'uso della scrittura dei padri, l'uso della scrittura secondo tutta l'impostazione più moderna, perché era un grande umanista che tanto da dire. Nello stesso tempo anche come egli si pone di fronte alla scrittura dei padri con una formazione, potremmo dire, analoga a quella di Lutero, ma con uno spirito diverso. Su questo ho scritto ultimamente. Chi ha portato un contributo anche interessante su questa attività nel Meridione è un dottorato di ricerca che ha fatto il professor Cassese, che purtroppo non ha ancora pubblicato, servendosi anche un po' delle lettere inedite. Speriamo che possa uscire e possa portare un contributo. Certamente il più indefesso studioso di Seripanto, pubblicista, è Tarico Chiesa. Non portava soltanto, permettendo in particolare, sul suo letto la figura di Seripanto, brutta però, che si trova alla Biblioteca Nazionale di Napoli, che era da San Giovanni a Carbonara, che è la biblioteca che gli aveva costituito col fondo di Seripanto, che è di una preziosità enorme. anche per i codici che lui ha avuto in eredità dal fratello Antonio, che è un grande umanista, e quelli che ha raccolto lui. Peccato che nel suo testamento fatto qui, proprio a pochi metri da noi, ha messo i libri che non erano protestanti, dovevano essere portati a Napoli, i libri eretici dovevano essere bruciati. Purtroppo, non so come andate a finire, non li troviamo. Gutierrez, se sapete come è studiata anche attraverso le epistolari di Napoli, l'importanza dei teologi spagnoli, il Concilio di Trento, alcuni vescovi, ma anche l'edizione critica del diario di San Ivanto, ormai lo conoscete tutti, è stato un contributo veramente eccezionale. Ma quest'uomo, così amabile, Sotero lo conosce bene, no? Come tutti gli ultimi anni della sua vita è stata la ricerca di dare anche tutta la pubblicazione dei registri del suo generale. 5 volumi del generale di Siripanta, che non sono forse troppo diffusi, qui ci sta il direttore dell'Istituto Agostiniano di Roma, ma forse sono anche molto importanti. Io in questa rassegna ho messo quelli che sono gli elementi che mi sono sembrati importanti. Non è da chiudersi minimamente nell'ambito dell'ordine agostiniano. Non è soltanto l'ispirazione della riforma che egli vuole della vita religiosa, ma anche tutti i suoi viaggi attraverso l'Europa, in cui non si è preoccupato soltanto di estinguere quello che poteva essere qualche piccolo germe di adesione alla riforma, quello che lui vedeva come necessità di riportare allo spirito agostiniano, primigenio tutti quanti, come c'è riuscito, e anche quando non c'è riuscito, come è stato il suo governo sereno e solo. Quindi il regista generalato, di cui i 5 volumi sono già usciti, e in elaborazione il 6° volume degli indici, è veramente un'opera di grande importanza. Il mio contributo negli ultimi tempi è stato di riprendere anche alcuni aspetti di Siripanta, in modo particolare il problema della giustificazione, quello che è stato il suo intervento minimamente di favoritismo e l'estinzione di una diocesente creata così unicamente per venire incontro al Marchese di Pescara, creare una diocesi tagliando quella di Salerno, lui ha reagito prima ancora di entrare in città, cioè prendere possesso della sede. E chi gli scriveva era San Carlo Borromeo a nome dello zio, che poi l'ha fatto cardinale, e c'è, e lui si mantiene, dice non posso assolutamente cedere. Così anche alcuni scritti riguardante proprio l'interpretazione della scrittura dei padri in pandan, ma anche in maniera diversa da come si è posto il te. Allora non abbiamo una visione del Rinascimento, del Cinquecento, vediamo la coerenza di quest'uomo nella vita e l'immagine che abbiamo e che è stata esposta anche qui a Castello del Buon Consiglio e che rimane, credo, una figura non di un pittore qualunque, io credo che abbia posato qui. E qui ci fa vedere un po' come egli è vissuto veramente in piena coerenza e quale contributo ha dato. In ultimo, un piccolo particolare, qui è andato via il professore, si è trovato un quadro con 5 cardinali che non si riusciva bene a capire, è stato esposto anche qui alla mostra di Madruzzo, con l'aiuto di Zio Roger non riusciamo ancora, ma poi è stato ripulito qui dalla sovrintendenza e si è trovato. Se ripanto con Naosio, l'uno fianco all'altro, seduto con rotole umane. Poi viene il cuore, poi c'è una figura che in un primo tempo io falsamente avevo interpretato come Morone. Non era Morone, ma era scontato. Poi viene Siripanta con rotolo in mano, e quindi i due grandi teologi che ha nominato anche il Papa nel discorso che ha fatto qui nella cattedrale di Trento. Nello stesso tempo anche alle spalle c'è un cardinale senza barba, con un viso veramente truce, che sembrerebbe che voglia proprio colpire alle spalle Seliman. Ebbene, dalla ripulitura di un'iscrizione che ci ha fatto addormentare, non riusciamo bene a poter capire quando è scomparsa quella sola posizione, e si è visto con chiarezza Inghilterra sopra il Polo, o se proprio le lettere corrispondono, o essere con lo spazio, si è visto sfrontato l'amico che tanto ha contribuito, poi si rimanda e poi Medio Oriensis. E quindi quella supposizione che aveva fatto che fosse proprio Simonetta corrispondeva. Ebbene, la figura di Seripanto è ancora tutta da studiare, e speriamo che anche Cassese, che si era messo a trascrivere 153 lettere, o anche di più, 300, in corrispondenza, ma sono, mi pare, quasi 5.000 lettere ancora da pubblicare. È tutto ancora intrattante, perché non pensiamo che tutto quello che ha scritto Seripanto sia negli atti del concilio. C'è ancora molto, voi siete giovani, auguro che possiate realizzare quello che è veramente un contributo alla teologia non sistematica, nel senso che ha falsificato, ha sclerotizzato il tridentino, ma in quell'impostazione biblico-patristica liturgica, in quella visione in cui la tradizione ci dà la possibilità, con tutti gli strumenti critici, è un grande umanista, conosce le lingue orientali, eccetera, conosceva gli scritti di Lutero, conosceva l'Europa, eccetera, non è stato uno scrittore, un teologo avulso dalla storia. E quindi io finisco subito, non voglio tediare, facendovi una preghiera. Lavoriamo in collaborazione, storici e teologici. Una teologia astorica, specialmente quando si tratta di interpretare i documenti del Magistero, sia pure a distanza di secoli. Una teologia storica ci porta alle secche che abbiamo sofferto, ci porta anche alle sacre monte. Una teologia, quindi, in collaborazione storica, una storia critica, una storia in tutta la sua ampiezza, ma che sia veramente che dia a noi la possibilità di poter vedere come la parola di Dio si incarna in quel periodo, come pronta. E l'ultima cosa, un contributo recente, di cui ci sono parecchi autori qui, è stato il congresso che si è tenuto a Salerno sotto la presidenza dei professori De Rosa, e qui ha fatto un accenno proprio alla sua relazione su Seripanto, in cui Seripanto è stato studiato nel suo ambiente. Qui c'è il padre Vittorino Grossi, che ha trattato proprio della scuola agostiniana. C'è stata la presentazione anche dell'ambiente socio-culturale nello studio delle varie diocesi prima di Seripanto, e qui c'è un altro relatore, lì il professor Paese. La signorina Magliotta ha presentato anche alcuni aspetti della riforma, ma il nucleo centrale è stato anche il vedere come Seripanto è stato colui che ha veramente non soltanto contribuito, io mi occupai della giustificazione, in apertura anche alle esigenze più moderne, e purtroppo nelle contraddizioni non ha sbattuto le porte, ha sofferto e morto anche in sofferenza qui a Trento, ma con quella fedeltà al Cristo che aveva scelto, alla parola di Dio, alla Chiesa, e credo che la sua opera non resta soltanto in un pugno di manoscritti preziosissimi, ma dovrebbe essere anche per noi oggi un risveglio degli studi anche storici, perché ci sono tanti riferimenti a Seripanto, ma di opere complete non abbiamo ancora, ma anche per noi teologici può essere un aiuto anche in chiave ecumenica. Non vi fermo di più, ho già approfittato di voi. Grazie padre Malanzini. Grazie per queste sue parole che mi hanno fatto pensare tutto il tempo a una delle intuizioni più moderne e profonde di Paolo VI, quando diceva che nella nostra epoca più che di maestri ha bisogno di testimoni. Però lei, oltre a essere un testimonio, è anche un maestro, quindi grazie di questo suo intervento.